Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le persistenti turbolenze sulle piazze finanziarie europee, l'allarme default proveniente dagli Stati Uniti e il nuovo taglio alle tariffe in roaming per i cellulari, questi i temi della nuova puntata in economia. In Europa permane dunque la debolezza sui mercati europei, mentre gli allarmismi degli operatori si suddividono tra la paura di un'insolvenza sui pagamenti degli Stati Uniti, se non si risolverà positivamente il braccio di ferro parlamentare sull'aumento dei limiti di deficit federale, e il ricrearsi di allarmismi sull'area euro, a dispetto del nuovo piano di aiuti alla Grecia concordato nella scorsa settimana dai leader dell'Unione Europea Valutaria. Il quadro delle rinnovate tensioni è tornato a riflettersi sui paesi europei maggiormente indebitati come Spagna ed Italia, e la conseguenza è che grandi e piccoli investitori scelgono di proteggersi dal rischio di questi paesi. Proprio in questi giorni l'istituto tedesco Deutsche Bank ha rivelato di aver ridotto drasticamente, meno 88% in 6 mesi, la propria esposizione al debito pubblico italiano. Come bisogna interpretare questa mossa? Il commento di Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di Banca Albertini SIS. La banca tedesca, come tutte le banche tedesche, ha in portafoglio, in questo caso bisogna dire aveva in portafoglio, una quantità molto elevata di titoli di Stato dei paesi di area euro, ovviamente scegliendo quelli che offrivano un rapporto rischio-rendimento migliore per quanto riguarda l'Italia, e altri invece con un rischio puro maggiore per quanto riguarda Grecia, Portogallo e Irlanda. Ora, di fronte a una situazione che è venuta via via peggiorando, diventando sempre più difficile, di fronte alla possibilità e all'opportunità che le quotazioni abbiano una tendenza negativa, potessero avere una tendenza negativa per un certo periodo di tempo, perché ci si è resi conto fin dall'inizio che trovare un accordo tra le varie autorità europee, la Banca Centrale Europea e lo stesso Fondo Monetario diventava difficile, era abbastanza evidente, anche se non con questa forza, con questi livelli di prezzo, che quella che viene definita normalmente speculazione avesse la possibilità di attaccare, tra virgolette, i debiti pubblici, e ovviamente il nostro purtroppo è un debito pubblico che presta la possibilità di essere attaccato in maniera importante perché è molto alto. Prestiamo il fianco, è vero che il rapporto deficit-PIL non è male, abbiamo anche un avanzo primario, questo è positivo, però di fronte a 1.800 miliardi di euro di debito è chiaro che complessivo, è chiaro che qualsiasi stormire di fronte crea dei problemi, e quindi in una situazione in cui c'è questa incertezza, c'è una manovra finanziaria che non tutti la nostra hanno apprezzato, lo stallo americano che bene o male si ha effetto un po' su tutti i debiti, chiaro che chi aveva già avuto problemi in passato per la leva eccessiva, queste Deutsche Bank nel 2007 in particolare, avrà ritenuto che forse era meglio ridurre l'esposizione ai titoli di area euro dei paesi meno virtuosi, tra i quali il nostro. L'Italia dunque, pur avendo un deficit di bilancio relativamente contenuto, sconta il suo elevato rapporto debito-PIL, che diventa bersaglio di allarmismi quando le tensioni dei mercati sull'area euro si innescano, prendendo spunto dalle crisi debitorie di Grecia, Irlanda e Portogallo. Il commento di Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano. Io la vedo un po' simile purtroppo al 92, vale a dire in realtà noi stiamo attaccando un problema con degli strumenti che sono a mio parere sbagliati, vale a dire quando c'è un problema di base che è emerso, vale a dire quello del debito sovrano nell'area euro, se noi lo risolviamo con un fondo, come si pensa di fare, per comunitario che sia o così questo tipo, in realtà ci scontriamo contro il fatto che ci sono sempre più titoli di debito potenzialmente da vendere di quanti ne potrà mai comprare un fondo che ha delle dimensioni definite. È un po', se vogliamo, per chi se lo ricorda, all'epoca il problema del 92, quando la Banca d'Italia pensò di contrastare le vendite sulla lira vendendo le riserve. C'erano più lire da vendere che riserve da scambiare contro gli acquisti di lire. La speculazione internazionale lo sa, e più che speculazione vorremmo dire gli investitori, perché è una parola che non mi piace, comunque gli investitori lo sanno e quindi percepiscono il rischio. Un'osservazione banale, perché quando la crisi era al massimo del problema, vale a dire 3 anni fa, gli interessi sui titoli di Stato erano a zero, quindi vale a dire che le richieste per i titoli di Stato erano clamorose, tutti li volevano. Eppure la crisi era molto più intensa 3 anni fa rispetto a quello che è adesso. Come mai? Semplicemente è un riflettore della paura dei mercati che si sposta da diverse parti. Allora era puntato verso le banche e quindi le banche internazionali, varie Morgan Stanley, Merrill Lynch e così via, precipitavano e dovevano essere salvate, quindi tutta la preoccupazione si spostava lì e i titoli di Stato venivano visti come una cosa molto salda e molto sicura. Adesso il riflettore si è spostato, una volta messi in sicurezza gli stati, le banche dagli stati, sono gli stati a non dare più garanzie, ma specialmente non le danno gli stati europei perché non hanno una banca centrale che stampa soldi per loro. Grecia, spread ai massimi, timori sui debiti sovrani, ma non solo. A preoccupare le piazze finanziarie del vecchio continente c'è anche la situazione americana. È ormai una corsa contro il tempo per raggiungere un accordo sull'aumento del tetto del debito statunitense prima del 2 agosto per evitare il default. Il tetto al debito federale è fissato per legge a 14.300 miliardi. Repubblicani e democratici vanno ognuno però per la propria strada. I repubblicani spingono per un accordo in due fasi, i democratici si oppongono ad un piano a breve termine. Lo speaker della Camera Boehner resta convinto che l'unica soluzione è un aumento del tetto del debito in due fasi, una immediata con 1.000 miliardi di dollari di tagli e una nel 2012 in piena campagna elettorale dopo che una commissione avrà individuato le spese da tagliare. La Casa Bianca ritiene la proposta inaccettabile. Sentiamo il commento di Alberto Bisin, economista della New York University ed editorialista della Stampa. Sono abbastanza d'accordo che i repubblicani rischiano molto, cioè stanno facendo comunque la figura dei ricattatori, stanno facendo la figura di quelli che si interessano tutto sommato relativamente poco del paese, eccetera. Questo è successo già con Clinton, in cui i repubblicani hanno bloccato, diciamo, il funzionamento del sistema pubblico e ne sono usciti malissimo. Quindi è possibilissimo. Io intendevo, ovviamente, diciamo, il presidente in queste cose, se succede qualcosa al paese, se il paese va anche in default tecnico, ovviamente il presidente ne risente, la reputazione del presidente ne risente. Su questo stanno giocando i repubblicani, cioè questa offerta che gli hanno fatto di essenzialmente estendere, innalzare il tetto sul debito essenzialmente per un anno fino a prima delle elezioni è oggettivamente un chiaro tentativo, insomma, di prendere un trappolone, insomma, vogliono prenderlo per la gola. Non è chiaro come si solverà, anche dal punto di vista proprio di reputazione delle due parti, non è affatto chiaro. Lei una qualche via d'uscita la vede a questo punto? Perché mi sembra oggettivamente ne stiamo parlando da parecchio tempo e l'impasse sembra netto. L'impasse è netto, diciamo che in questo tipo di negoziazioni uno si aspetta che la risoluzione arrivi all'ultimo momento, questo non vuol dire che arriverà, però diciamo se mi avesse chiesto un mese fa quando arriverà, se arriverà la risoluzione, io avrei detto all'ultimo istante, perché funziona così, diciamo, quindi non mi stupisce se arrivasse, non mi stupirei se arrivasse all'ultimo istante. È vero che in questo momento insomma il rischio che non si arrivi alla fine c'è. Ci sono un paio di proposte sul tavolo tutto sommato accettabili da entrambe le parti, insomma io credo che alla fine ce la faranno. Ci allontaniamo dai mercati finanziari ma restiamo in Europa. Buone notizie per tutti coloro che hanno scelto l'estero come meta delle proprie vacanze estive. A partire dal 1 luglio l'Unione Europea ha infatti stabilito un nuovo taglio dei costi sia per le conversazioni che per lo scambio dei dati tramite smartphone. I prezzi non potranno superare i 39 centesimi contro i 43 attuali per una diminuzione totale di 10 punti percentuali. Il commento di Sergio Del Grosso, funzionario della Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Sentiamo. Per farsi concorrenza ovviamente possono migliorare i tetti stabiliti dalla Commissione, ma diciamo che questo è un trend ovviamente in discesa dei prezzi delle comunicazioni che si sta verificando appunto negli ultimi anni in Europa, ma quello che è più importante forse è anche il sistema delle tutele, no? A tutela dei consumatori, le varie procedure che sono state poste in essere per informare meglio i consumatori quando si trovano all'estero, cioè l'SMS per esempio che arriva appena si atterra sul territorio straniero in Europa, che informa del piano tariffario, dei nuovi prezzi che vengono applicati quando si arriva appunto all'estero, oppure cosa ancora più importante forse il tetto per evitare il cosiddetto bill shock al traffico dati, insomma, che quando si va a consultare la posta elettronica o si naviga all'estero, adesso c'è un tetto di 50 euro appunto che l'operatore fissa stabilmente al fine di evitare così che l'utente possa sforare e una volta tornato nel proprio paese, in Italia per esempio, trovarsi una bolletta scioccante. Ma dunque ci sono state una serie di direttive ovviamente recepite a vari livelli appunto anche in Italia, ce ne sono altre già in preparazione come per esempio che sono in via di ricevimento, come per esempio quella che stabilisce per esempio la migrazione in un solo giorno, no, da un operatore all'altro. In questi giorni proprio il Ministero sta organizzando il recepimento delle direttive 136 e 140 della Commissione Europea, che stabilisce un ulteriore per esempio numero di tutele per il consumatore proprio in questo settore. Diciamo che questo è l'ultimo stadio, dal 1 luglio 2011, come ha detto nel servizio, c'è un nuovo livello delle tariffe che saranno in vigore fino al 30 giugno del 2012 e poi interverranno ovviamente altre direttive che dovranno essere recepite dal governo italiano. Insomma. Anche per questa settimana per Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.